Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. Boxcar Berta di Berta Thompson. Capitolo 19. Prima di partire, trascorsi una serata alla pensione di Martha Bigler, dove incontrai molte donne hobo. La maggior parte di loro era stata sulla strada, alcune sui vagoni merci, ma per lo più viaggiando in autostop. Sarah Jones, una donna alta e goffa sui 30 anni, aveva girato il paese in lungo e in largo per 10 anni, giusto per vedere un po' di mondo, diceva. Quando arrivava in un posto che le piaceva, cercava lavoro come donna di servizio in qualche famiglia, finché racimolava abbastanza denaro per ripartire. Una delle ragazze disse che era difficile fare l'autostop senza cedere agli uomini, che ti davano un passaggio, ma Sara replicò sbuffando: «Se sei pigra, è vero, ma se hai voglia di lavorare, non devi chiedere niente a nessuno. Io non mi metto mai per strada se non ho soldi a sufficienza e quando finiscono mi fermo e ne guadagno degli altri». Si parla tanto di disoccupazione, ma se una ragazza sa cucinare ed è disposta a mettersi in ginocchio a strofinare pavimenti, di lavoro ne trova sempre. Almeno quel tanto che basta a pagarsi vitto e l'alloggio e a mettere da parte un paio di dollari per il prossimo viaggio. Fu Sara a fare la proposta di mettermi in viaggio con un uomo. Un hobo ha soltanto un modo per non farsi molestare dai frenatori e dai piedi piatti della ferrovia. Deve viaggiare con una donna e con un bambino. Le coppie senza figli non sono sicure, perché ci sono in giro tante carogne che non ci pensano due volte a farsi la donna di uno hobo. «Grazie, Sara», dissi. «Baby Dare farà il suo primo viaggio da vagabonda sola con me». «Per te sarà uno scherzo», disse Sara. «A nessuno verrebbe in mente di dar noia a una donna con un neonato e una valigia. Ma stai lontano dalle organizzazioni di carità, altrimenti ti toglieranno la bambina». «Hennessy, il giornalista, era interessato al mio viaggio e mi fece promettere che giorno per giorno avrei annotato le mie esperienze. Spedii per posta le poche cose che avevo e portai con me soltanto una piccola sacca con il necessario per la bambina. Hennessy mi accompagnò fino oltre Wheaton e un mattino presto mi lasciò sulla Lincoln Highway, dopo avermi regalato $5. Prima che scomparisse alla vista, un uomo e una donna di mezza età su una grossa Lincoln si fermarono e mi fecero salire. Arrivammo a Omaha prima di cena. I due guidavano come pazzi, facendo i turni al volante e cibandosi di panini in modo da non perdere neanche un minuto di tempo. Praticamente non si scambiarono una parola in tutto il viaggio e non fecero domande neppure a me, salvo per accertarsi che fossi diretta a ovest. A Omaha dissi che volevo scendere a Linca. Così mi lasciarono proprio davanti all'ostello, augurandomi buona fortuna. Poi ripartirono a tutto gas. Avevano parenti di New York e viaggiavano senza alcun bagaglio. Entrambi indossavano vestiti costosi. L'indomani mattina la loro foto era in prima pagina su tutti i giornali. Li avevano presi una 15 chilometri a nord di Omaha perché si erano schiantati contro un'altra auto. Erano ricercati per omicidio a Cleveland. Mi resi conto che mi avevano preso a bordo per destare meno sospetti, ma mi avevano fatto fare un bel balzo in avanti. Baby Dare portava benissimo la strada. Sembrava che ci fosse nata. Il giorno seguente attraversai Omaha in tram e mi piazzai di nuovo sull'autostrada. Si fermò un camion che trasportava mobili e per 3 giorni viaggiai con quello, seduta accanto al guidatore, un ragazzone robusto del Kentucky, che non volle credermi quando gli dissi che era una ragazza madre. Mi offrì da mangiare e a tutte le fermate. Fu molto affettuoso con la bambina e mi disse che aveva anche lui 6 figlie come la mia, ma erano rimaste sui monti con la moglie, che aveva lasciato perché andava a caccia di scoiattoli con il vicino. Non mi chiese dove volessi passare la notte, ma semplicemente prese una camera extra in tutti i posti in cui ci fermammo e poi venne a letto con me. Aveva un carico da recapitare in una cittadina vicino a Denver e doveva lasciare la strada principale una 15ina di chilometri a est di Cheyenne. Avrebbe voluto che proseguissi con lui e mi tenne il broncio come un ragazzino. Quando rifiutai, ma poi baciò me e la bambina e ci lasciò sull'autostrada. Non glielo dissi, ma mi spiacque di vederlo andare. Era stato il mio primo uomo da quando avevo avuto la bambina e mi aveva fatto sentire ancora viva e intelligente. Poi fui raccolta da un branco di pivelli, 4 ragazzi diretti a Salt Lake City. Quando scoprirono che non avevo un soldo, mi invitarono a fare sosta con loro in un campo obo che conoscevano poco oltre Cheyenne. In città comprammo 52 centesimi di pane e stufato e chiedemmo informazioni sul campo a uno degli operai che lavoravano sulla linea della Union Pacific. Il campo sorgeva a circa 2,5 chilometri a ovest del deposito, oltre lo scalo merci, in una gola riparata dagli alberi. Un tempo doveva esserci stato un insediamento perché c'erano ancora 4 o 5 case diroccate e diversi camini e focolari all'aperto. Lungo i lati del campo erano ammucchiate latte di metallo e carcasse di automobile. Un idrante abbandonato forniva acqua. Mi guardai un po' in giro e decisi che il posto era vivibile. Appese alla parete di una baracca c'erano delle tinozze per bollire la biancheria. E c'era legna per il fuoco. 4 o 5 gruppi di vagabondi stavano cucinando. Ci accolsero con interesse e cameratismo. L'indomani mattina andai a fare un giro nei dintorni e vidi degli indiani. Vidi anche una donna indiana vestita da cowboy che viaggiava sulla parte frontale di un bagagliaio. Il personale della ferrovia consentiva sempre agli indiani di viaggiare gratis nei bagagliai. C'erano molte donne interessanti in quel campo. Ne ricordo in particolare due. Sunshine Nelly aveva circa 45 anni, era malconcia e sformata, ma era una cuoca eccellente e rideva con tutti. Veniva da una cittadina del Minnesota, dove aveva vissuto per 20 anni con il marito e con i figli. 2 anni prima di quando la conobbi, si era stufata di preparare da mangiare tutti i giorni, di andare ad ascoltare il concerto della banda il sabato sera e di andare a messa. Così aveva cominciato a fare l'autostop. In fondo, però, le era rimasto uno spirito casalingo e ammetteva di restare volentieri in un campo anche 2 mesi se gli uomini le portavano cibo a sufficienza da cucinare. Non era particolarmente attraente, ma faceva bene da mangiare ed era accomodante, anche se non eccessivamente interessata per ciò che concerneva gli altri bisogni degli uomini. Il secondo giorno che trascorremmo al campo passò tutta una mattina a cuocere biscotti su un pezzo di lamiera che aveva trovato in un deposito rifiuti. Mentre li mangiavamo, ci raccontò della sua cucina smaltata di bianco nel Minnesota. May, la cavallona, era un tipo completamente diverso. Somigliava un po' a Sarah Jones. Quando arrivava in una città, lavorava un giorno e si procurava i soldi che le servivano per andare avanti. Era grande e grossa, sembrava sapere il fatto suo e diceva di essere sempre in grado di trovare un lavoro come donna di fatica. Tuttavia, non restava mai molto nello stesso posto, perché non poteva portarsi a casa un uomo qualsiasi. Le piacevano gli uomini rudi, non importava che fossero sporchi. A volte, tuttavia, si preoccupava maternamente della loro pulizia. L'ultima mattina che trascorremmo al campo, uscì da una baracca con un obo rosso in viso, con il quale aveva dormito, e gli fece una gran scena, lo sgridò e si mise a strofinargli il collo e le orecchie come se fosse un bambino di 10 anni. Quando ce ne andammo a mezzogiorno, lui la stava ancora seguendo come un cagnolino e lei era indaffarata a lavare camicie e biancheria. Ambedue queste donne, scoprì, avevano vissuto in cittadine che sorgevano intorno alle linee ferroviarie. Anche molti degli uomini venivano da posti del genere. È un fenomeno che ho verificato puntualmente sulla strada. Se uno trascorre tutta l'infanzia in mezzo a treni che vengono e che vanno, non può sottrarsi alla febbre del vagabondaggio. Martin La Rossa, una donna anziana, piccola e magra, con i capelli grigi, si vantava di aver viaggiato per 30 anni sulla strada senza pagare un dollaro. I 4 ragazzi con i quali ero venuta mi accompagnarono sulla strada oltre Salt Lake City, in direzione di Pocatello, e aspettarono a distanza finché videro un messicano su una Ford che si fermava per darmi un passaggio. Nei pressi di Boys, la bambina ed io fummo raccolte da 2 donne dirette a Spokane. Baby Girl ebbe una piccola colica durante quel tragitto e le 2 donne si preoccuparono tanto che vollero assolutamente condurmi a Spokane e pagarmi un dottore. Il medico disse loro che non aveva mai visto una bambina più sana di quella e le irritò a tal punto che non si preoccuparono neppure di trovarmi un alloggio. Trovai una stanza sopra una panetteria. La moglie del fornaio si preoccupò quando seppe che andavo in giro in autostop con una bambina così piccola e il giorno seguente mi presentò a un rappresentante di Sigari, il quale mi disse che se fosse andata con lui fino a Walla Walla mi avrebbe accompagnato a Seattle prima della fine della settimana. Accettai ed egli mi fece conoscere sua madre e la sua famiglia. Si innamorarono tutti di Baby Dirt e di punto in bianco mi esortarono a sposare Charlie, il rappresentante. Così scoprii con sorpresa che le ragazze madri ricevono in media più proposte di matrimonio delle giovani virtuose. La mamma, mio fratello Frank, mia sorella Margaret e il professor E.A. Orr ci vennero incontro a Seattle e ci fu una grande riunione di famiglia. La mamma era sempre più vecchia e grigia e non mi fece nessuna domanda. E a Orr le era ancora devoto. Dopo qualche giorno mi trasferii nella Home Colony, nello stato di Washington, dove fui ospite di J. Ryan e della sua splendida compagna, Agnes Ryan. I Ryan avevano 4 bei bambini. Quando parlava di Agnes, Ryan non diceva mai mia moglie, ma sempre la mia compagna. Nella colonia nessuno avrebbe mai chiesto a un uomo e a una donna che vivevano insieme se fossero regolarmente sposati. Si dava per scontato che non lo fossero. Nella Home Colony non c'erano figli legittimi o illegittimi, c'erano soltanto bambini sani, felici, desiderati. E Baby Dirt diventò come loro, una bambina che viveva all'aria aperta, libera, amata e rispettata. Rimasi nella colonia 1 anno. Dopo 6 mesi andai alla clinica per le malattie venere di Seattle e feci una cura, benché la mia reazione Wasserman e quella della bambina fossero entrambe negative. Trascorrevo la maggior parte del mio tempo passeggiando e pescando e aiutando i Ryan ad accudire le galline. Leggevo molto e scrivevo molte lettere. Di tanto in tanto andavo a Tacoma e aiutavo il compagno Leon a far uscire il suo mensile, The Agitator. Leon era un uomo corpulento e robusto, più grande e più forte di Lowell Schroeder. Aveva occhi azzurri chiari ed era bello come un adone. Ci innamorammo subito, a prima vista. Ma non potei andare a vivere con lui fin dal primo giorno, come avrei voluto. C'era qualche difficoltà. Leon viveva con Mary. Avevano un figlio di 1 anno e mezzo e un altro sarebbe nato di lì a poche settimane. Ma Leon aveva anche una seconda amante, una donna italiana, Angelina. Costei era un tipo materno per eccellenza ed era rimasta vedova di un italiano morto in una rapina nell'Illinois. Anche Angelina era incinta di 7 mesi. Infine, sebbene a molti parrà impossibile o perlomeno strano, Leon aveva anche una terza amante, Luba, una donna russa, essa pure incinta. Ma le difficoltà non erano provocate dalle tre donne. Tutte immaginavano che andassi a letto con Leon e non se ne curavano. Anzi, una sera Angelina mi domandò nel modo più amichevole di questo mondo se non fossi anch'io incinta di Leon. E si meravigliò quando le risposi che non avevo avuto la possibilità di ricevere tanto onore. Non era esattamente la verità, perché Leon si era offerto di ingravidarmi, ma aveva rifiutato di amarmi se io non avessi accettato di dargli un figlio. Il sesso è un'esperienza sacra, preziosa, aveva detto. Gli uomini e le donne non dovrebbero stare insieme se non vogliono avere figli. La classe che assumerà il controllo della società sarà quella con il maggior numero di figli. Noi radicali e rivoluzionari dobbiamo mettere al mondo molti bambini e dobbiamo insegnare loro a odiare il capitalismo e lo sfruttamento. Dobbiamo insegnare loro a combattere per la libertà e per la giustizia. Le nostre donne rivoluzionarie si umiliano e per di più danneggiano il movimento quando usano mezzi anticoncezionali e praticano l'aborto. L'amore si fa permettere al mondo bambini. Gli avevo risposto che avevo già provato a essere madre e che per il momento quell'esperienza mi bastava. Infatti sentivo già crescere l'irrequietezza e sapevo che il richiamo della strada sarebbe stato più forte dell'amore per mia figlia, come lo era stato per mio padre prima di me. Libri ribelli. Libri ribelli.